Udite, udite, radioascoltatori, oggi è crollata la Camera dei Deputati. Non sappiamo ancora se ci sono... Questa è la storia di un imprenditore che fino a poco tempo fa stipendiava 48 persone, ma in 48 ore la sua vita è cambiata nel nostro meridione. Nell'82 ha avuto un'idea geniale, lo descrivono una persona cordiale, un tipo leale, non avrebbe mai fatto a nessuno del male. Riga dritto, esercita ogni suo diritto, ma tra le tasse e le finanziarie è uno Stato che chiede il pizzo. Si è trovato troppo spesso a pensare tra un cappio alla gola o dove stare zitto. Una famiglia ignara ogni sera lo aspetta, una moglie che prepara una cena, ma la sua è sempre fredda. Ma lui ha un piano fisso in testa, non vuole morire per una causa persa. Vuole rimanere tra gli ideali, vuole cambiare le cose per i suoi cari, vuole cambiare le cose per gli italiani. Ma lui invece sa che così non è, il destino non si può scegliere da sé. Ma lui è pronto e sa già come finirà, anche al costo di andare a migliorare. La notte, pensa come spiegare il fallimento. Non dormi, pensa a quante famiglie senza uno stipendio. Delle volte, tutto si risolve, sempre con il peggio. Quante volte il pensiero di partire si fa sempre più pesante. Non è quello di fuggire, ma di cogliere l'istante. Prepara il piano da come arrivare, come entrare piano piano. Tutto diventerà più chiaro, raccogli il necessario. Saluta tutti con le chiavi in mano. Un amore ci vediamo, tra le braccia strette. Le sue ultime parole dette, addio. Comincia il viaggio, in poche ore arriva a destinazione. Si presenta bene con in mano una 24 ore piena di coraggio. Ma basta che prema un tasto, il suo corpo si avvolgerà in un'esplosione. Attenzione, il suo cuore batte, ma la sua testa è morta. Non è grazie alle sue gambe che riesce a passare da quella porta. Entra e rimane fermo con lo sguardo afflitto, pensando questa è l'ultima cosa che ho visto. Poteva fare un discorso, far capire bene il suo gesto. Poteva rimanere di lui un ricordo diverso. Era soltanto un italiano, non un mafioso, non un camorrista. Non ero musulmano, né tantomeno un terrorista. Chiuse gli occhi e urlò, attenzione! E subito dopo innescò l'esplosione. Il grande boato, i colpi e le macerie. Venne chiamato suicidio di stato, il motivo venne a tacere. Salve, udite udite, radioascoltatori. Oggi è crollata la Camera dei Deputati. Non sappiamo ancora se ci sono vittime, ma di certo sappiamo che il popolo italiano in questo momento sta festeggiando. L'hanno chiamato suicidio di Stato. Adesso, puntini, puntini, puntini, cosa succederà?